Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In tempi di crisi è meglio affidarsi magari al materasso se qualcuno ha messo via i soldi ancora in questo modo, oppure ai vecchi buoni fruttiferi postali. Di questo parliamo perché c'è qualche novità importante per alcune vertenze sulle quali l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, è in prima linea. Ben trovato il presidente Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è una battaglia quella che voi state facendo sui buoni fruttiferi postali. Da quando parte questa battaglia? Ah, diciamo che ormai sicuramente le poste con l'ADICO ha una vicenda che non se ne vede più la fine, perché dopo il ciclone delle poste ferie, di cui l'ADICO ha vinto un po' tutte le cause che riguardavano questi debiti fraudolenti sulle prepagate, adesso a finire sotto nostro l'ente di ingrandimento da parte degli uffici legali dell'ADICO, riguardano proprio i buoni fruttiferi, buoni che le persone 10, 20, 30 anni fa avevano sottoscritto e oggi hanno scoperto che andando a riscuotere alla scadenza l'importo, scoprono che la somma spettante non è quella calcolata con interesse pattuito 20-30 anni fa, di cui la posta si giustifica dicendo che oggi non sono in grado di dare quel tipo di interesse perché le varie vicende, i vari adeguamenti, le spread e quant'altro sono andate a rivedere un pochino il tasso di interesse. Però il contratto era quello fatto appunto 10, 20, 30 anni fa e mi pare ne avevamo già parlato in questa sede, vale quel contratto perché quelle erano le condizioni firmate e quelle bisogna applicare. Indubbiamente il contratto vale e le poste lo devono rispettare. Noi abbiamo tentato con le buone a farglielo capire, però come capita sempre, con le buone questi enti qua fanno un po' le orecchie da mercante e cercano un pochino di far valere la propria posizione dominante nei confronti dell'utente. Il quale utente questa volta, rispetto a come magari è capitato in passato, non ha voluto scoraggiarsi perché ha capito che rivolgendosi all'ADICO è certo che insomma un risultato lo deve ottenere, in quanto non ci sono dubbi sul fatto che le poste devono rispettare quello che è stato un contratto sottoscritto a suo tempo e che adesso devono mantenere fede a quanto patito. In giorni in cui stiamo vedendo i mondiali di calcio, in cui gli arbitri non sempre fanno una bella figura, anche voi vi rivolgete a un arbitro che però è quello appositamente istituito, si chiama arbitro bancario finanziario. Sì, è una figura competente per quanto riguarda queste problematiche legate al mondo finanziario, perché anche le poste rientrano in questa categoria, è forte di quelle che sono delle sentenze che sono già state espresse e risultano essere state tutte a favore del consumatore. Abbiamo deciso di portare avanti le nostre istanze citando le poste di fronte all'arbitro bancario. Abbiamo iniziato adesso questa fase, abbiamo rivolto a tutti i soci le procedure per poter rivolgersi a questa figura gratuitamente, c'è possibilità di farlo in completa autonomia scaricando un modulo e pagando un contributo di 20 euro, oppure come hanno fatto molti altri, rivolgersi all'ufficio legale dell'ADICO, il quale senza nessun problema si adopera per portare avanti le istanze dei consumatori e quindi le ragioni per cui questi cittadini meritano di ricevere quanto fattuito negli anni trascorsi. C'è anche il sito ufficiale che è www.arbitrobancariofinanziario.it, è tutto attaccato, arbitrobancariofinanziario.it. Specificamente ci sono alcuni titoli che sono al centro dell'attenzione, la serie N come Napoli, O come Otranto e P come Palermo. Sì, sono questi titoli che hai citato te e riguardano tutte quelle forme di investimento fatte negli anni passati, di cui addirittura qualcuno l'ha fatto addirittura quasi 30 anni fa e che pensavano addirittura di recuperare cifre che rispetto a quelle che sono i nostri conteggi risultano meno che della metà. Per cui stanchi di queste anteorie, le persone hanno cominciato a rivolgersi all'Adico e a segnalare questo comportamento delle poste, noi certi delle ragioni delle persone non abbiamo esitato, appunto, come detto, a citarle. Certamente il fatto che quelle buone non abbiano voluto trovare una soluzione non ci ha entusiasmato e anzi ha convinto l'Adico ad alzare i toni della polemica, a tal punto che oltre che rivolgersi all'arbitro bancario abbiamo pensato anche a diffondere un po' questa vicenda, perché riteniamo giusto che, insomma, le persone all'atto della sottoscrizione dei titoli sappiano anche qual è l'atteggiamento di quest'ente e quali sono i rischi che potranno incorrere tra 10, 20, 30 anni quando dovranno o penseranno di aggranerare un gruzzoletto e magari poter destinare ai figli o ai nipoti. Possiamo fare un esempio, se ci riusciamo. 30 anni fa magari 1 milione di lire messe via, ed era una cifra importante. A quanto dovrebbe corrispondere adesso? Quanto voleva dare le poste invece a quanto aveva diritto chi li aveva messi da parte? Abbiamo proprio un caso di 1 milione di lire, quello che è stato il primo di un cappello di casi. 1 milione di lire sono scritti esattamente 30 anni fa o 29-30 anni fa, la persona pensava, per effetto della rivalutazione del tasso di interesse negli anni, di recuperare una cifra intorno ai 16.700 euro e si è trovato con una cifra di 6.900 euro, quindi una cifra notevolmente ridimensionata. Molti si sono rivolti anche a noi e che hanno già riscosso la cifra e poi hanno saputo successivamente di questa cosa. Certamente questa è una posizione più difficile, ma noi invitiamo tutti a rivolgersi all'Adico e a non desistere da quelli che sono i diritti che è giusto che questi portano avanti all'Adico bancario, figura autorizzata e competente per poter sentenziare se le poste hanno ragione o torto, cosa che la giurisprudenza in questo momento sta dando ragione ai cittadini. Serie N, O e P dei titoli delle serie dei titoli di Poste Italiane. Se avete problemi rivolgetevi o all'arbitro bancario finanziario oppure all'Adico di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini, tra un paio di giorni con un altro argomento insieme. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.